pagine. E posso ancora credere alle favole, perché nel mio mondo non c'è nessuna ipocrisia. C'è solo la mia vita che va, come la gestisco. Posso sempre imparare qualcosa di speciale. Io vivo nel mio mondo e resto fermo e guardo tutto quello che mi gira intorno. È il mio male. Io resto qui nel mio mondo e rimango a guardare. Perché come posso credere ancora alle favole?